giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fa spesso rotta anche su Trieste il traghetto che in Campania è stato teatro di un presunto dirottamento. Gli agricoltori friulani per i colleghi alluvionati in Romagna, foraggi e mangimi per decine di migliaia di euro. Lussari aperta ai ciclisti la strada che ha deciso il Giro d'Italia, ma si pedala solo in salita. 6 patenti ritirate per stato di ebbrezza a Sistiana, il bilancio della prima serata della movida d'estate. Trieste fondi PNRR per aumentare la differenziata, obiettivo 68% entro il 2027. Scherma, Mara Navarria vince contro Giulia Rizzi la sfida tutta friulana agli italiani assoluti di spada. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Lettige. Rita Micoli, ha suscitato parecchia apprensione il caso del traghetto turco diretto in Francia, sul quale sono intervenuti i lagunari della San Marco che si sono calati dagli elicotteri dopo che il comandante aveva lanciato l'SOS perché c'erano dei clandestini a bordo armati di coltelli. Il traghetto, coinvolto nel presunto dirottamento, ha fatto spesso rotta su Trieste, è di proprietà del gruppo armatoriale che gestisce la linea dell'autostrada del mare da Trieste a Istanbul. Il traghetto Roro, battente bandiera turca, diretto in Francia, sul quale sono intervenuti i militari della Brigata San Marco dopo l'allarme lanciato dal comandante perché c'erano dei clandestini armati di coltello a bordo, ha fatto spesso rotta anche su Trieste. Il traghetto Galata Seaways appartiene infatti al gruppo armatoriale DFDS che naviga sull'autostrada del mare che collega la Turchia con Trieste, che da alcuni anni ha anche la linea che collega Istanbul con la Francia 4 volte alla settimana. Ci ha spiegato Enrico Samer, che è anche agente generale del gruppo per l'Italia. Samer ha sottolineato che è sempre più raro che i clandestini riescano a imbarcarsi sui traghetti a causa dei controlli sempre più rigidi nei porti turchi. Ha definito comunque il caso del presunto dirottamento anomalo, in quanto i clandestini generalmente cercano di raggiungere i porti di approdo nell'Unione Europea quanto più nascosti. Se scoperti dall'equipaggio, il comandante deve comunque segnalare immediatamente la loro presenza alle autorità turche, che avvisano quindi le autorità europee, che normalmente fanno proseguire la navigazione. In caso di pericolo le autorità però intervengono e l'SOS del comandante ha segnalato uomini armati a bordo. Dei 15 immigrati trovati a bordo, 3 sono denunciati a piede libero per possesso d'armi, 2 coltelli e un taglierino sequestrati. La procura sta valutando l'ipotesi del reato di dirottamento. 4 immigrati, di cui 2 donne, sono stati invece ricoverati, il più grave era in ipotermia. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La solidarietà di agricoltori e allevatori del Friuli Venezia Giulia per chi ha perso tanto o tutto nell'alluvione delle scorse settimane in Emilia Romagna e in particolare nelle zone più colpite. Il servizio arriva dal nostro inviato che si trova oggi a Conselice. Mandi e grazie Furlans. Giacomo Fucci di mestiere fa il produttore di formaggio. Lontano dalle telecamere si emoziona dopo aver ringraziato per l'arrivo dei primi carichi di aiuti giunti a Conselice dal Friuli proprio nel momento giusto. Il grano non ce l'abbiamo perché è andato tutto a mollo, quindi i problemi erano grandi. Ecco, se non arrivava la paglia eravamo veramente nei problemi. Sì. La cooperativa Massari è una delle tante aziende dell'Emilia Romagna gravemente danneggiate. Milioni di euro di raccolto perso. 2.400 ettari in tutto. L'acqua ha inondato ogni cosa, comprese le stalle, peraltro rialzate. Il Friuli non è rimasto indifferente. Andrea Bulfoni, insieme a qualche amico, ha coinvolto agricoltori, privati cittadini e aziende, trovando una grande risposta. Perché penso che il 76, che non è stata un'alluvione ma un terremoto, qualcuno sicuramente ci ha aiutato e quindi penso che noi dobbiamo fare alla stessa maniera. Tra foraggi, mangimi e il viaggio messo a disposizione da aziende di trasporto, il valore della donazione nell'ordine delle decine di migliaia di euro, un sostegno importante anche perché molti dei 90 soci della cooperativa vivono loro stessi in zone alluvionate. Il presidente della cooperativa Massari, Gianpietro Sabbatani. Quindi hanno perso le suppellette, l'immobilio e quindi abbiamo anche messo in piedi altre iniziative per cercare di dare una mano a queste famiglie per rimettersi in piedi anche loro. L'agricoltore Dario Cracogna ha accompagnato dal Friuli suo figlio. Com'è vedere da vicino questo territorio così martoriato? Fa impressione. Fa impressione perché siamo arrivati dalla campagna proprio direttamente e abbiamo visto i disastri che sono qua veramente. Tutto perduto. Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Riaperta oggi la strada del Lussari, era rimasta chiusa tra le polemiche anche dopo il passaggio del Giro d'Italia. Da oggi gli appassionati della due ruote che vogliono cimentarsi con la salita che ha deciso l'esito della Corsa Rosa possono farlo, ma solo in salita. Alle 9 del mattino, l'orario ufficiale di apertura delle transenne, ai piedi della salita del Lussari in Val Sizera ci sono 3 ciclisti e 2 escursionisti a piedi. Poi alla spicciolata iniziano ad arrivare diversi altri cicloturisti, gruppi da 2-3 persone, per lo più sloveni. Vengono, ci dicono, a rendere omaggio alla montagna che ha permesso a Primož Roglič di vestirsi di rosa. Anche per chi viaggia a propulsione elettrica, i 7 km di salita sono parecchio impegnativi. Nessuno di loro, neanche a dirlo, riuscirà mai a pareggiare i 44 minuti stabiliti dal campione sloveno. Dalle 9 alle 15 tutti i giorni fino al 31 ottobre, meteo permettendo, la strada ancora forestale è tutta dedicata a loro, esclusivamente in salita. La discesa, esclusivamente in cabinovia, al costo di 13,50 €. Chi ha prenotato la notte in un'attività ricettiva sul Lussari potrà salire a piedi o in bici anche dalle 19 alle 20. La vicinia di Camporosso, l'ente che è in gestione la parte privata della foresta e che si è assicurata l'autorizzazione all'uso della superficie fino all'autunno, ha installato fino a ieri i cartelli in 3 lingue con le regole da seguire. Ne incontriamo un paio di ciclisti che provano ad avventurarsi in discesa, ancora ignari delle prescrizioni. Le responsabilità di ogni eventuale incidente sono a carico dei ciclisti. Una volta a settimana la strada sarà pulita dai volontari della vicinia. 2 di loro ogni giorno vigileranno sul percorso i cicloturisti. Nei prossimi giorni verrà potenziata la cartellonistica e installate 2 sbarre a inizio e fine salita per meglio regolare i flussi di transito. Il gestore si aspetta una 30 di cicloturisti nei giorni infrasettimanali e fino a 200 al giorno nei weekend. Per la soddisfazione dei gestori delle attività ricettive del borgo, che si presenta ancora addobbato a festa, di rosa. Se l'esperimento andrà bene quest'estate, la vicinia sta pensando di aprire una stazione di servizio per le biciclette in uno dei suoi locali nei pressi del santuario. Tarvisio, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con l'obiettivo di arrivare al 68% di raccolta differenziata entro il 2027, il Comune di Trieste ha approvato una delibera per la realizzazione di 10 progetti con fondi PNRR. Dai progetti è atteso un incremento della raccolta differenziata del 22,5% rispetto alla quota oggi raggiunta sul territorio comunale, che è del 45%. Tra gli obiettivi anche il miglioramento della qualità del servizio e del decoro cittadino. A Cegas APS AMGA, ha fatto sapere l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, anticiperà i fondi necessari non coperti dal piano nazionale, pari a circa 5 milioni di euro sui 7,5 complessivi. Prima serata estiva alla Baia di Sistiana, 4 le pattuglie del radiomobile di Aurisine, delle stazioni di Basovizza, Barcola, Miramare e Duino che sono state impegnate per garantire la sicurezza della circolazione stradale e prevenire incidenti dovuti all'eccesso di alcol. Il bilancio ha visto 6 patenti di guida ritirate, 5 persone denunciate e una segnalata. Si tratta di giovani tra i 20 e i 35 anni di età. Il valore massimo di concentrazione di alcol nel sangue registrato è stato 3 volte oltre il consentito e il ventenne neopatentato è quello che rischia la sanzione maggiore. A fine nottata è stato recuperato dai genitori. Traffico intenso sulle autostrade della nostra regione in questa giornata che segna il rientro di molti turisti austriaci e tedeschi dalle località costiere. Si segnalano 2 km circa di coda in entrata al casello di Latisana, fra i 3 e i 4 al nodo di Palmanova in direzione della A23 verso Tarvisio e 3 km in uscita alla barriera di Ugovizza. Sono stati presentati questa mattina a Pordenone i nuovi percorsi del trasporto urbano di ATAP. Sentiamo. Raggiungere il centro città in 15 minuti dalla periferia è uno degli obiettivi del nuovo piano del trasporto pubblico di Pordenone presentato stamattina. Da lunedì, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, saranno 13 le linee di autobus a disposizione dei viaggiatori, 3 le linee completamente nuove, ma tutti i percorsi verranno riorganizzati in modo da collegare il centro e le periferie con un sistema a raggiera, come si vede chiaramente dalla nuova mappa dei bus disponibile sul sito di ATAP Pordenone. L'idea è anche quella di servire meglio scuole e ospedali e creare dei poli di interscambio con le linee extraurbane verso i comuni vicini. Nuovi collegamenti dunque, per menzionarne alcuni, tra via Udine e Borgo Meduna, l'ospedale civile e la stazione, tra il centro città e l'ospedale civile, tra la zona industriale di Cordenons, la stazione, il quartiere di Torre e il centro Meduna, tra Porcia e la stazione, tra il quartiere di Valle Noncello e San Gregorio con il centro città. Una linea collegherà Cordenons direttamente con la Cittadella della Salute. Altro obiettivo del nuovo piano trasporti è ottimizzare gli interscambi con i treni in partenza e in arrivo dalla stazione per Udine e per Venezia. Le corse transiteranno per la stazione o alla fermata di via Borgo Sant'Antonio a 200 metri ai minuti 27:57. Riguardo il personale al lavoro sugli autobus, non ci sono carenze di organico, afferma Luca Piasentier, direttore d'esercizio di ATAP. Gli operatori di servizio sono 196, di cui 144 per il servizio extraurbano NCC e 52 per l'urbano, esattamente quanto il fabbisogno dell'azienda. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono arrivati finalmente tutti i permessi per consentire a E-Distribuzione di completare il collegamento elettrico tra la cabina e le pompe, fondamentali per evitare allagamenti nel sottopassaggio ferroviario di San Marco a Palmanova. L'ente gestore della linea elettrica ha ora al massimo 50 giorni per la realizzazione dell'allaccio. La nuova viabilità ridisegnerà completamente l'area dello snodo ferroviario nell'incrocio tra l'imbocco della zona industriale di Palmanova e la strada regionale che collega la città a Udine. Per superare il blocco ferroviario che da anni rallenta la viabilità automobilistica, verrà eliminato il passaggio a livello e realizzato un sottopassaggio e due rotatorie, una per ogni versante della linea ferroviaria. I sindacati della scuola della provincia di Gorizia hanno inviato al prefetto Ricciardi una lettera per segnalare forti criticità degli organici del personale della scuola docente e ATA. Nonostante sia stato mantenuto l'organico per le scuole italiane, si registra invece un calo per quelle slovene. In particolare i problemi derivano dalla mancata conferma dell'organico Covid che era stato assunto durante la pandemia, in una situazione in cui negli ultimi 10 anni il sistema ha subito comunque un taglio degli organici del 25% per il personale docente e del 35% per quello non docente. Per il territorio di Gorizia sono stati tagliati circa 250 posti a fronte di un calo degli alunni che non è stato pesante come in altri territori. Restano infatti tuttora scoperte circa 400 richieste per corsi di formazione o di riqualificazione per mancanza di personale. In Friuli Venezia Giulia, Confcooperative annovera 67 cooperative del settore culturale, con 6.502 soci e ricavi per 24 milioni di euro. È il quadro emerso a Gorizia in un convegno promosso da Confcooperative Alpe Adria. Secondo i numeri presentati da Carlo Scorvino, ricercatore della Direzione Lavoro della Regione, nel settore prevalgono le assunzioni in parasubordinazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Questi nel 2022 hanno rappresentato oltre il 48% delle assunzioni, in aumento di quasi il 47% rispetto al 2019. FVG Pride, oggi a Pordenone, quarta edizione della manifestazione con il Pride Village a Parco Galvani. La raccolta per la marcia è prevista per le 15, con la partenza di 8 carri delle associazioni partecipanti. La marcia attraverserà le vie principali della città con un percorso ad anello, sospensione momentanea della circolazione dalle 14:30 fino al termine della manifestazione lungo il percorso, divieto di sosta con rimozione fino alle 20 in Viale Dante e senso unico da Viale Dante a Viale Martelli a ingresso Parco Galvani. L'attività di prestito gratuito di ausili sanitari è tra i servizi maggiormente richiesti all'associazione triestina Goffredo de Banfield, che da 35 anni opera per il sostegno delle persone anziane fragili o non autosufficienti a sostegno della loro permanenza a casa. A fronte della crescente richiesta riscontrata negli ultimi anni, l'associazione ha deciso di ampliare la propria equip con nuove competenze e di creare una nuova sede nel magazzino Ausili, che è stata inaugurata questa mattina. Abbiamo chiesto alla presidente dell'associazione, Maria Teresa Squarcina, perché è importante questa nuova struttura. La nuova sede è importante perché ci permette di ampliare e arricchire un servizio estremamente importante per l'associazione De Banfield, che è quello di prestito di ausili sanitari con una richiesta sempre maggiore. Il fatto di avere un magazzino molto più ampio come la Fondazione Dorni ci ha permesso con un suo sostegno economico fa sì che possiamo offrire un servizio più completo con anche una consulenza più complessiva sui servizi, una formazione a chi affiancherà la persona che lo utilizza per poterlo usare nel modo migliore. Quindi diventa uno strumento importante per poter rimanere a casa, che è l'obiettivo principale che si dà l'associazione The Banfield. Quanti sono gli interventi che l'associazione fa nel territorio di Trieste in un anno e per cui appunto è importante ampliare le possibilità? Gli interventi, che sono anche su altri settori, sono oltre 2000 nel corso dell'anno, cioè incontriamo 2000 persone con vari servizi. Più di 1000 sono gli ausili che noi prestiamo durante l'anno, con una richiesta continua, forse perché evidentemente c'è qualche maglia nella rete che non funziona del tutto, del quale noi cerchiamo di sopperire. Quindi è un supporto a quello che fa il settore pubblico, diciamo? Sì, come è sempre nostra funzione, supporto, integrazione, cercando di non sovrapporci, quindi di non disperdere risorse, ma di o integrare o proporre anche delle nuove modalità di risposta che poi possono essere acquisite anche dal settore pubblico. Da giovedì Trieste sta ospitando 1300 specialisti della retina da tutto il mondo. Al Porto Vecchio è in corso il congresso internazionale della Società Italiana di Chirurgia Vitreo-Retinica. Oltre 1300 oculisti, tra cui centinaia relatori, i più autorevoli esperti a livello mondiale nel campo delle malattie della retina, stanno affrontando al Convention Center a Trieste i temi più attuali e innovativi nell'ambito della diagnosi e della patologia delle malattie retiniche. Simposi, tavole rotonde e corsi durante i quali è possibile anche seguire la trasmissione in diretta di interventi chirurgici effettuati nelle sale operatorie della Clinica Oculistica di Trieste, ma anche da altri centri di eccellenza in Francia, Inghilterra, Polonia, Turchia e Belgio. Daniele Tognetto, direttore della Clinica Oculistica di Asugi Trieste. Trieste, per quello che riguarda perlomeno questo ambito, siamo fortunatamente dotati di tutte le tecnologie più moderne, quindi possiamo vantarci di poter offrire ai nostri pazienti i trattamenti migliori. Un'occasione, quella del congresso, per approfondire la conoscenza delle nuove tecnologie utilizzate nell'oftalmologia che hanno permesso l'evoluzione della diagnostica e delle terapie. Sono molte nuove terapie per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età, per il trattamento della retinopatia diabetica, per il trattamento delle malattie della superficie retinica e così via. Quindi ci sono novità in tutti i campi, ci sono novità che riguardano la terapia genetica delle malattie ereditarie, quindi questo è un altro importante passo avanti, e quindi nuovi farmaci per il trattamento di queste malattie. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Siamo ora al tempo, nuvolosità variabile su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 22,5 gradi, mare calmo con temperatura di 22,5 gradi. Pordenone 24,5 gradi, Udine 25, Gorizia 25,5. Sul Piancavallo 15,5 gradi, a Sappada 18,5, a Forni di Sopra 20 gradi, a Tarvisio 20,5, a Tolmezzo 22,5 gradi. Sul Monte Lussari 12 gradi, sul Monte Zoncolan 14. Sulla costa a Grado Lignano 24 gradi con temperatura del mare 23 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nelle prossime ore cielo da variabile a nuvoloso con possibili rovesci e temporali locali più probabili sulle prealpi e in pianura. Domani al mattino cielo in genere poco nuvoloso e tempo ancora stabile. Dal pomeriggio variabilità con possibili rovesci e temporali locali più probabili sulle prealpi e in pianura, meno sulla costa. La cultura torna Risonanze, festival nei luoghi del cuore di Malborghetto Valbruna. Per l'edizione 2023 il Festival del Legno che Suona si sdoppia. Dal 15 al 18 giugno il cartellone di Risonanze propone concerti, talk, passeggiate musicali nel bosco ed esperienze in natura. Mentre nel weekend del 19 e del 20 agosto si terrà l'Officina dell'Arte curata dal Legno Vivo, per riscoprire dalla voce dei suoi diretti protagonisti l'arte della liuteria. Dal 15 al 18 giugno dunque si potranno vivere e condividere 4 giorni di immersione nella grande musica con ospiti internazionali, performance e approfondimenti. A Spilimbergo alle giornate della luce, oggi è la giornata di consegna del premio Il Quarzo di Spilimbergo, Light Award, assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione. I tre autori finalisti che si contendono il premio alle 21 al Cinema Miotto sono Matteo Cocco per Brado di Kim Rossi Stewart, Michele D'Attanasio per Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e Ruben Impens per Le otto montagne di Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch. La giuria è presieduta da Marco Risi. Alla cerimonia di assegnazione dei premi parteciperà anche Sebastiano Somma, che ricorderà Michela, ragazza di Spilimbergo, vittima di femminicidio di cui ricorrono i 7 anni dalla morte. Agane, benandanti e donne di guarigioni nel Friuli di una volta è il titolo dell'incontro in programma alle 20.45 nella sede della storica società operaia di Pordenone, a Palazzo Gregoris. Sarà presente lo scrittore friulano Paolo Paron e la ricercatrice Teresa Pitton. E prende il via l'ottava edizione di Festi, il festival estivo del litorale, fino al 5 agosto a Udine e Trieste, 32 eventi tra teatro, musica, danza e incontri. Oggi al Teatro San Giorgio di Udine alle 18.30 e alle 21, Book is a Book is a Book, progetto di ricerca artistico dello svizzero Trickster P. La performance, che ha ricevuto il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la Cultura, mentre al centro l'oggetto libro, invitando lo spettatore a condividere un'esperienza che lo proietterà altrove. Sport, la scherma. È stata Mara Navarria, l'atleta carlinese in forza alla scherma Treviso, ad aggiudicarsi la finale dei campionati italiani assoluti di spada femminile, disputata ieri alla Spezia, nel derby friulano che l'ha opposta a Giulia Rizzi, udinese delle Fiamme Oro, che si allena e vive in Francia. Navarria ha vinto il match per 15-11, conquistando così il quarto titolo italiano in carriera. Sentiamola nell'intervista di Sabrina Gandolfi per Rai Sport. Mara Navarria, che si porta a casa il quarto titolo qui agli assoluti, e supera la Fiammingo. No, in realtà supero me stessa, perché la mia prima avversaria sono proprio me stessa, e quindi oggi è iniziata la giornata bene, ero concentratissima, avevo anche le minacce del mio maestro Roberto Cirillo, con cui ho lavorato anche negli ultimissimi giorni qui in Liguria, alla Genova Scherma, e dove ogni tanto ritorno in questa regione per allenarmi. Devo dire che è stata una giornata molto intensa, però da numero uno dei gironi, numero uno della gara. Questa cosa mi piace. Allora Mara, che tipo di gara è stata? Come la descriveresti? E soprattutto, lo so che non piace molto spesso alle donne, ma in questo caso ti fa onore. Classe 1985, le hai stracciate tutte e partita archiviata. Diciamo che l'età non conta, conta la testa nella scherma. Sì, certo, le articolazioni poi parlano. Però devo dire che è stata una giornata in cui ho avuto anche il supporto del mio gruppo sportivo, l'esercito, che ringrazio perché mi sostiene sempre, cioè quando perdo e soprattutto quando vinco. Sono 6 gli atleti del Judo Kuroki Tarcento che partecipano ai campionati europei di kata a Podčetrtek in Slovenia il 12 e 13 giugno prossimi. Gino Gianmarco Stefano e Alessandro Cugini nel Nage no Kata cercheranno un posto al sole dopo il quinto dello scorso anno, che non gli è bastato per accedere alla finale. Davide Mauri con Massimo Cester nel kata e no kata per cercare una medaglia in una gara che si annuncia molto competitiva. Marika Sato e Fabio Polo nel Kodokan Goshin Jutsu, che tornano ai campionati europei dopo 4 anni di stop dovuti ad alcuni problemi. 3 coppie con obiettivi diversi, ma tutte e 3 concentrate per disputare l'europeo. Ci sarà anche Giuliano Casco come arbitro della gara. Inoltre Marika Sato disputerà anche gli europei master, sempre nella località slovena. Baseball, storica vittoria della New Black Panthers di Ronchi dei Legionari nella terza giornata della Pool Scudetto. I ragazzi di Furlani, sostenuti da Hector Rodriguez, hanno avuto ragione del Godo per 20-2. In testa al girone F, in battuta, rimane Lotsend Macerata. Il nuoto è l'attività motoria in acqua per allenarsi a una lunga vita attiva, e questo è l'obiettivo della manifestazione H2O Invecchiare con Stile, che si terrà oggi dalle 16 alle 19 alla Piscina Bianchi di Trieste, con la gara, tra le altre, delle staffette 360, chiamate così perché la somma dell'età dei 6 componenti, 3 uomini e 3 donne, deve raggiungere almeno i 360 anni complessivi. Domani su questa rete alle 6:05 ritorna Est-Ovest Radio. Nella puntata parleremo della guerra in Ucraina, della situazione politica in Polonia, della ricerca storica sul patto Ribbentrop-Molotov e di come questo fatto stia ancora condizionando la diplomazia nell'area dell'Europa orientale. Infine, un servizio sarà dedicato alla Slovenia, che dal 1 gennaio farà parte per un biennio del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E sempre su queste frequenze, dopo il giornale radio della domenica mattina, torna anche la rubrica Vita nei Campi, dedicata al mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare del territorio. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai, domani parte con la difficoltà a reperire personale per le nostre malghe in quota. A seguire la storia di Angelo Floramo, che racconta del Corpus Domini, festività strettamente legata ai fiori e ai campi, per la rubrica delle normative e le disposizioni veterinarie e non per combattere la peste suina africana. E ancora, nella rubrica della frutticoltura, una scheda sull'esotico, ma ormai comune anche qui da noi, finger lime. Per quella dei sommelier, un assaggio guidato al Verduzzo, vino d'eccellenza della nostra regione, e nello spazio della floricoltura la coloratissima e versatile vinca. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. In regia Giuliano Pecorario e Federico Comar, in redazione ha collaborato Samantha Agon. Da Daniele Letti, Gerita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.